Giova che gioca a fare l'indiano, Giova che ascolta il padrino parlare, e Giova che alleva galline da uova, Giova che vede cose da pazzi, e come suo nonno e come suo zio deve per forza tirare a campare. Giova che è duro allevare galline, Giova che odore di carne bruciata, e Giova che vive in terra di fuochi, Giova che vende le uova al nord, e come suo nonno e come suo zio deve per forza tirare a campare. Lei col sorriso a 32 denti, lei che ora passa le notti felici, e lei che attende che nasca suo figlio, lei che vuol bene alla sua terra, e come sua mamma e come sua zia hanno dovuto per forza emigrare. Lei che adesso si nutre per bene, lei che vuol solo prodotti del sud, e lei che davvero crede all'amore, lei che adesso ha bisogno di uova, e come sua mamma e come sua zia hanno dovuto per forza emigrare. Di terra dei fuochi, Giova che vende le uova al mercato, e Giova la notte che sa di pattume, le cose che mangia possono bruciare, e come suo nonno e come suo zio deve per forza allevare galline. Giova da grande vuol fare il cecchino, Giova che adesso gli basta un lavoro, e Giova che presto impara a sparare, intanto produce le uova alla nitro, e come suo nonno e come suo zio deve per forza allevare galline. Lei che ascolta quel che si dice, lei che non crede che possa accadere, e lei che vuol bene al proprio paese, mangia soltanto le uova di Giova, e come sua mamma e come sua zia hanno dovuto per forza emigrare. Lei che a quel bimbo gli dà tante uova, lei che non sa che cosa succede, ma lei che non crede che possa accadere quello che sente avvenga davvero, e come suo nonno e come suo zio deve per forza